Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buongiorno, benvenuti a Salva Danaio da Deborah Rosciani, una buona giornata a tutti. Allora, come vi avevo promesso ieri, oggi cominciamo un po' a parlare di vacanze. La borsa ci ha rimandato un po' in tilt ieri, ma lasciamo da parte, se possiamo, anche queste preoccupazioni finanziarie, anche perché d'altronde oggi la borsa torna già a respirare, arrivano buone notizie da Francoforte, dalla Banca Centrale Europea. Poi ve le racconto. Il punto della settimana di borsa lo faremo venerdì, perché comunque chi vuole un monitoraggio costante anche di questo argomento deve essere accontentato. Oggi vi dicevo, cominciamo a parlare di vacanze che sono peraltro già in corso per coloro che approfittano magari di qualche assaggio di riposo prima delle ferie vere e proprie che gran parte delle famiglie italiane fanno ad agosto. Molte famiglie, anziché spendere per qualche fine settimana o per magari durate più lunghe centinaia di euro per alberghi ed hotel, sono pronte ad affittare per un periodo più lungo una casa vacanze, magari con giardino e vista sul mare o in un bel posto di montagna. Allora, quanti stanno scegliendo di affittare un appartamento piuttosto che andare in albergo magari in condivisione con familiari e amici per risparmiare un po' e tagliare qualche spesa? Immobiliare.it stima che siano oltre 300.000 gli immobili offerti in Italia come soluzione in affitto per la vacanza, per cui, prendendo a spunto anche qualche statistica e qualche indagine che abbiamo analizzato in questi giorni, abbiamo pensato di organizzare questa trasmissione anche per indicarvi, se state optando per questa scelta, quali sono i passi da seguire per evitare brutte sorprese e di conseguenza rovinarsi anche la vacanza, perché poi non è detto che affittare un'abitazione comporti anche il non trovare delle brutte sorprese. Chiaramente bisogna trovare anche il proprietario disponibile. Insomma, ci sono tanti modi e bisogna anche interrogarsi sul fatto se sia necessario stipulare un determinato tipo di contratto o meno. Insomma, anche questo è un ambito in cui bisogna viaggiare, è il caso di dirlo, informati. Stamattina ci aiuteranno a capirne qualcosa di più. Intanto Carlo Giordano, amministratore delegato di Immobiliare.it, con il quale faremo un panorama della situazione su chi privilegia la casa vacanze e quali sono i trend più evidenti. E poi un altro Giordano, questa mattina curiosamente due persone con lo stesso cognome, in questo caso è Pietro, segretario generale di Adiconsum. I consigli per, come vi dicevo, fare un corretto contratto d'affitto e non incappare in qualche disavventura. E poi Isabella Tulipano, relazioni esterne di Solo Affitti, che è uno dei più noti franchising del settore delle locazioni e proprio in questi giorni ha lanciato il nuovo marchio Solo Affitti Vacanze. 800 24 00 24 per le vostre domande, le vostre sollecitazioni su questa argomento. Magari raccontateci se state scegliendo l'affitto di un'abitazione piuttosto che l'albergo, la roulotte, il campeggio, che prezzi state trovando, che disponibilità, che contratti anche vi stanno chiedendo di sottoscrivere, di stipulare, di firmare, perché magari così in Italia c'è qualche situazione strana che vale la pena denunciare. Allora, vi ho dato i numeri per intervenire. Prima di passare all'attacco su questo argomento e quindi cominciare a chiacchierare con i nostri ospiti, andiamo invece a monitorare la borsa, perché dopo quello che è successo ieri, oggi è necessario anche controllare quello che sta accadendo. Ieri giornata veramente difficile per i mercati, che sono tornati di nuovo a preoccuparsi per lo stato di salute del sistema bancario europeo in particolar modo. E perché? Perché domani vanno a scadenza prestiti per 442 miliardi che il sistema bancario europeo ha chiesto alla Banca Centrale Europea, e quindi il tema è: riuscirà la banca europea, le banche europee riusciranno a restituire questi soldi domani o avranno bisogno di rifinanziarsi integralmente le banche del vecchio continente? Oggi già un primo test, l'asta della Banca Centrale Europea ha assegnato 131 miliardi di euro alle banche che ne hanno fatto richiesta. Si pensava che le banche andassero a chiederne almeno 300 oggi, quindi la cifra chiesta è ben inferiore alle attese e questo ha fatto subito sospirare in termini di sollievo. Le borse del vecchio continente, che erano partite molto incerte, adesso rimbalzano, anche se c'è da dire che rispetto ai cali di ieri il rimbalzo è abbastanza contenuto. Londra più 0,9, Parigi più 0,8, Francoforte più 0,6, Milano più 1,28%, e il titolo che rimbalza di più è quello che ieri è calato di più. Intesa, ieri ha perso più di 7,5 punti, oggi recupera 3,5 punti, per cui in realtà deve fare ancora un po' di strada. CIR più 3,40, Banco Popolare più 3,33, Autogrill più 2,69, Exor più 2,64, questi i rialzi più consistenti in Europa. I cali invece insistono sull'Ottomatica, che perde lo 0,9%, Snam Rete Gas meno 0,4, Luxottica meno 0,35%, recupera anche l'euro sul dollaro, che ieri ha toccato un nuovo minimo sul franco svizzero, 1,2288 sul dollaro in questo momento, per cui dopo essere ridisceso al di sotto della soglia di 1,22 oggi la recupera ampiamente. Lasciamo la borsa. Andiamo subito al tema di oggi. Allora, vi dicevo, case vacanza, state esplorando questa opzione per così godervi il meritato periodo di riposo di quest'anno, oppure state scegliendo, come dire, la modalità tradizionale, l'albergo piuttosto che il campeggio, la roulotte, come vi dicevo prima. In realtà l'appartamento è una soluzione per molte famiglie. Che tipo di costi si devono sostenere, soprattutto anche quali sono le regole che sono alla base di una corretta stipula di un contratto d'affitto in questi casi, perché comunque le prassi in Italia sono anche piuttosto differenziate a seconda dell'interlocutore che si trova. Vorrei partire subito con un monitoraggio generale della situazione con Carlo Giordano, amministratore delegato di Immobiliare.it, che saluto, bentornato a Salva Danaio, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, il vostro ultimo osservatorio dice che la casa vacanza, la scelta, la ricerca di case vacanza è aumentata di 5,5 punti rispetto all'anno scorso, e avete stimato in oltre 300.000 immobili offerti in Italia come soluzione in affitto per la casa vacanza. Ma chi va in casa vacanza, Giordano? Giordano Carlo, poi saluto anche l'altro. Ci sono due grandi gruppi di utenti che scelgono la casa vacanza come soluzione per le loro vacanze estive in questo periodo. E classico, le famiglie, e tipicamente sono gruppi familiari, padre, madre, due figli mediamente, quindi per loro la soluzione della casa è molto conveniente rispetto alla pensione o all'albergo, e trattengono il modello del nucleo familiare. E poi gruppi di amici, tipicamente profilo giovane, che ricercano soluzioni anche più grandi che non i soliti 4 posti letto, e ricreano il loro gruppo di amicizie e in vacanza di nuovo con un'attenzione al risparmio che rimane forte ed evidente. E per chi cerca la casa per andare in vacanza da affittare, quest'anno aumenterà la durata del proprio soggiorno, Giordano, oppure la diminuirà? Perché noi abbiamo parlato di questo tema anche stamattina a Soldi e Dintorni con il presidente di Asso Balneari, e anche lui ci ha confermato che effettivamente, insomma, per molti nuclei familiari le vacanze ci saranno. Aumenta complessivamente il numero delle famiglie che quest'anno andranno in vacanza, ma per poterlo fare accorceranno le durate. È così anche secondo il vostro osservatorio? Assolutamente sì. Osservando le richieste fatte dal nostro gruppo di utenti, osserviamo che cresce la domanda di casa vacanza e quindi la propensione ad andare a vacanza in questa formula, però si riduce rispetto all'anno precedente il periodo di soggiorno richiesto. Tipicamente la casa vacanza va a multipli di settimana, e abbiamo visto proprio una progressione da 3 settimane verso 2. L'interesse, leggo ancora il vostro osservatorio, per la casa vacanza in Italia è al 96% di italiani, ma continua a crescere strutturalmente anche la richiesta da parte di stranieri. Sì, vediamo proprio che l'incidenza delle ricerche, delle richieste fatte da persone che vengono fuori Italia è addirittura il trend maggiore, perché è più del doppio la crescita rispetto all'anno precedente. Su questo, un limite strutturale dell'Italia è che è poco organizzata. Uno straniero che vorrebbe fare una vacanza in Italia ha veramente mille piccole difficoltà per arrivare a trovare la soluzione di suo interesse. Siamo un paese ancora poco organizzato sull'ospitalità. No, poi certo che se in giro anche passa, come dire, in genere l'immagine dell'ospitalità che offriamo per esempio ai giapponesi, famosi giapponesi dell'anno scorso, che erano stati appunto spiacevolmente gabbati da un noto ristorante di Roma. Ma a parte questo, l'Italia non è tutta questa, quindi assolutamente non vogliamo virare il dibattito in questi termini. L'Italia è un paese stupendo dove ci sono tante opportunità naturalmente ancora da esplorare. Giordano, Carlo, ancora Immobiliare.it, poi la saluto. Un'ultima, qualche altra notizia sul costo delle case che avete così monitorato tra le regioni italiane dove sono i prezzi più alti e dove ci sono invece delle belle offerte delle quali magari approfittare quest'anno? I soliti classici, quindi Sardegna, Liguria, piuttosto Riviera Romagnola, rimangono preferiti nelle scelte italiane. Di conseguenza si portano anche costi alti. Una 4 posti letto, che poi è la formula classica, costano anche 1.000 euro a settimana con impennate poi sul periodo di agosto. E il bello dell'Italia come opportunità di paese è che si sta scoprendo zone nuove, che ha due benefici, no? Quindi il turismo si utilizza tutto il nostro territorio e ha costi ancora molto bassi. E la Puglia è in grande crescita e il costo medio di una settimana in casa vacanze è poco più di 500-550 euro. Crescono la Sicilia, le Marche, tutte zone che nel passato erano poco turistiche, salvo le persone residenti. Ha citato le mie Marche, mi dica un po' che costi ci sono là, no, tanto per capire se magari posso invitare qualcuno a trovargli una casa, oppure certo, devo essere scoraggiata in questa scelta qualora qualcuno volesse raggiungermi nella mia regione. No, io qui veramente l'Italia è un paese bellissimo e la scoperta che stiamo facendo sul territorio è veramente uno dei valori che stiamo portando avanti. Oggi andare in Riviera del Conero costa veramente poco, costa 500 euro a settimana per un posto, per un paesaggio bellissimo. E è proprio la capacità nostra, di probabilmente stimolati da un'attenzione al risparmio molto più forte che non nel passato, che non inseguire più mode ma andare a studiare zone nuove, posti bellissimi. E magari senza le discoteche classiche della Sardegna, ma con un paesaggio eccezionale. Giordano, io la ringrazio per essere stato con noi. È Carlo Giordano, amministratore delegato di immobiliare.it, quindi grazie, continui a segnalarci i vostri osservatori molto interessanti. Io intanto saluto gli altri due ospiti, con i quali a questo punto devo chiedere loro un attimino di pazienza, comincerò a questo punto a chiacchierare nella seconda parte della trasmissione. Pietro Giordano, segretario generale di Adiconsum, buongiorno. Buongiorno. E benvenuto a Salva Danaio, così come do il benvenuto ad Isabella Tulipano, delle relazione esterna di Solo Affitti, buongiorno. Buongiorno a voi. Voi tra l'altro siete partiti con Solo Affitti Vacanze, ma è un'iniziativa di quest'anno o l'avevate già messa in pista da un po' più di tempo? Sono io che ho sbagliato interpretare novità sul vostro sito? Diciamo che è un po' che studiamo appunto i dati che sono stati appena confermati da immobiliare.it, e però il marchio nasce effettivamente quest'anno come risposta appunto alla ricerca comunque sempre maggiore da parte degli italiani e degli stranieri della casa come soluzione per le proprie vacanze. Quindi in sostanza avete intercettato una domanda che evidentemente stava crescendo e che quindi voleva essere soddisfatta al meglio. Oggi a Salva Danaio abbiamo cominciato a parlare di vacanze per cercare di capire come devono comportarsi le famiglie che scelgono di prendere in affitto un'abitazione della località prescelta, quali sono intanto magari le località che così meglio rispondono magari a questa esigenza, quasi tutte in Italia naturalmente danno questa disponibilità, e soprattutto quali sono i passi che correttamente si devono fare anche per stipulare un regolare contratto d'affitto. Allora chiamateci all'800 24 00 24 e raccontateci un po' che intenzioni avete quest'anno e soprattutto se non avete ben chiara la dinamica con cui appunto un contratto d'affitto in questi casi si deve stipulare. Adesso per darci tutti i suggerimenti del caso abbiamo Pietro Giordano, segretario generale di Adiconsum, ed Isabella Tulipano, relazioni esterne di Solo Affitti. Partirei però, per tornare un attimo alla questione dei prezzi che affrontavamo prima, con la sollecitazione di Franco da Milano, che saluto. Franco, buongiorno. Buongiorno, mi sente? La sento bene, sento un po' di eco, se abbassassi il volume della radio sarei più felice. No, sono in viva voce, senza radio. Si avvicini un pochino. Mi avvicino. Sì, mi avvicino. Grazie. Fermi la macchina naturalmente. Grazie. Allora, io, il mio intervento era questo. Con mio padre, era storicamente da tanti anni, abbiamo fatto degli investimenti acquistando degli appartamenti in zona Adriatico e sono stati sempre a reddito. Negli ultimi 25 anni abbiamo visto il mutamento della composizione della clientela, abbiamo visto la fuoriuscita dei tedeschi, dalle mucilagini in poi, eccetera. Ho dei figli che vanno puntualmente in vacanza in altre zone e affittano anche loro, quindi un meccanismo che funziona. Quello di cui mi lamento è questo. Innanzitutto, anche per quest'anno, io ne parlo da piccolo proprietario di un certo numero di immobili, i nostri colleghi che hanno in gestione poi tutti gli immobili da allocare, anche per quest'anno non c'è nessun passo indietro, qualche minimo di buona volontà sui prezzi, proprio volgarmente sulle tariffe, anzi si gestisce in mano modo, e questo è un malcostume che vediamo da tanti anni. Allora sono arrivate le mucilagini, via i tedeschi, io parlo di una zona ben precisa, via i tedeschi, bene, aumentiamo i prezzi, abbiamo da fare degli investimenti, no, non li facciamo, si cerca di portare all'amministrazione, di portare qualche investimento da fare anche in termini di attrattive, sport, per stranieri, per italiani, eccetera, eccetera, non se ne parla. Il meccanismo è sempre quello: perdiamo quote di clientela, abbassiamo i prezzi. Noi da anni No, ma lei, Franco, mi scusi una cosa, se ho visto che lei comunque riconosce anche, come dire, i limiti comportamentali di molti suoi colleghi che hanno la sua stessa attività imprenditoriale, perché questa poi lo è nel pieno, mi chiedo, lei si associa a quello che fanno loro o lei comunque viaggia per i suoi appartamenti anche con un comportamento diverso, nel senso che se c'è da fare manutenzione la fa, se c'è da abbassare un pochino i prezzi per magari catturare qualche cliente a qualche altro suo collega lo fa o no? Guardi, non riesce? Noi sono 20 anni che siamo sempre pieni e quindi totalmente full tutte le volte e abbassiamo e teniamo i prezzi bassi. Mediamente rispetto a quello che vedo anche quest'anno, facevo i conti adesso per la stagione, siamo intorno al 15-17% in meno rispetto alla media tarifaria che c'è in giro. Il problema è che le stesse agenzie che hanno in mano i mandati dei proprietari, eccetera, applicano una pratica totalmente diversa. La teoria è: sono sempre tutti occupati quando abbiamo un sacco di appartamenti liberi anche per questa stagione, ma ufficialmente sono tutti occupati, al cliente viene detto che non c'è materiale, che però sono quelli, eccetera. Bello Franco, anche è scorretto all'ennesima potenza, pieni non ci lamentiamo. Il mercato è duro, Franco. Ma no, lei mi ha detto una cosa molto interessante, perché adesso la sottoporrò naturalmente ad Isabella Tulipano di Solo Affitti. Prima però volevo coinvolgere Pietro Giordano di Adi Consum, perché Franco diceva anche una cosa interessante, ma questo l'ho trovato anche io, Giordano, l'ho osservato anch'io, cioè magari ecco escono fuori tutti questi osservatori, non nessun elemento per poter contestare quanto ci ha raccontato prima immobiliare.it, cioè che i prezzi sono tutto sommato sotto controllo, in linea con quelli praticati l'anno scorso. Stamattina mi ha detto la stessa cosa il presidente di Asso Balneari: per sdraio, lettino ed ombrellone i prezzi sono in calo anche di poco, 2-3% sulle spiagge italiane, e poi gli operatori del settore mi dicono che non è vero, come è successo appunto a Franco da Milano. Mi spiega dove sta la verità? Insomma, siamo in retromarcia un po' sulle tariffe applicate anche nelle abitazioni o no? No, non siamo assolutamente in retromarcia, anzi le tariffe sono uguali e gli osservatori sono sempre osservatori di parte che tirano la coperta dove conviene. Quindi noi come Adiconsum abbiamo proposto ai nostri interlocutori, sia all'agenzia di viaggio sia all'agenzia immobiliari, di realizzare un osservatorio comune, paritetico, bilaterale, per cui insieme chi per tutelare i consumatori, chi per tutelare il proprio business, si potesse realizzare un osservatorio il più possibile oggettivo. Questo purtroppo non è, se si parla con i balneari, si dice che dicono che i costi delle cabine sono diminuite o al massimo sono rimaste stabili, se poi noi andiamo a vedere invece sul posto ci accorgiamo che degli aumenti ci sono nei fatti. Quindi sono osservatori, diciamo, parziali e messi ad hoc, di solito sono centri studi delle associazioni o delle aziende, e questo per noi non è a tutela dei consumatori. Allora, chiarissimo, vado subito a Solo Affitti, perché insomma tirava in ballo l'ascoltatore anche la vostra attività. È chiaro che un'intermediazione deve essere sempre pagata, se io mi devo mettere da sola, Tulipano, a fare magari la ricerca di un'abitazione in tre località, è chiaro che mettendomi davanti ad un portale come può essere il vostro faccio prima, e poi magari se vi chiamo per aiutarmi a stipulare quel contratto d'affitto per quella casa che ho scelto, è naturale che è un'attività che venga remunerata, su questo non ci piove. Detto questo, voi utilizzate il giochetto che Carlo diceva? Dite ai vostri clienti: attenzione, tutto pieno, sto facendo fatica a trovare una casa che faccia il caso suo, e quindi poi magari lì su quell'aspetto giocate per caricare un po' i prezzi? No, diciamo che nel nostro sito appunto la disponibilità degli immobili è trasparente, quindi nel momento in cui uno mette la ricerca per località vede quelli che sono gli immobili disponibili al prezzo o alla settimana effettiva in cui si possono prenotare. Io credo anche che questa mentalità, insomma, che di cui parlava il signor Franco è vera ed è stata vera forse per gli ultimi 30 anni, ma credo anche che stia mutando, perché il consumatore oggi è una persona sempre più attenta, che ha la possibilità di informarsi in tante maniere, per cui oggi che la prenotazione in internet è molto più diffusa e quindi io posso, prima di decidere di prendere quell'immobile o no, effettivamente valutare tante altre alternative, questo giochetto secondo me è anche più difficile da fare perché insomma molto probabilmente se quell'agenzia mi fa questo giochetto oggi ho tante altre scelte, non ho più solo un'agenzia che si occupa, certo, di questo. Certo, non è magari, ecco, una persona non totalmente sprovveduta magari può anche accorgersi insomma di un tipo di escamotage, sì, come questo. Senta, tornando invece ai prezzi, che Giordano dice sì, vabbè, è chiaro che dipendono un po' dall'osservatorio, qualcuno è di parte, bisogna vedere anche chi ovviamente quali sono magari le società che le elaborano e quant'altro, però lei mi dica insomma sulla base anche degli immobili che solo affitti mette a disposizione nella sua vetrina della clientela che voglia utilizzarvi come canale appunto per la scelta della casa della vacanza, sui prezzi come siamo messi rispetto all'anno scorso? Allora, noi troviamo che i prezzi appunto fondamentalmente siano rimasti stabili e che soprattutto la differenza nel mercato la facciano gli immobili di qualità, quindi per immobili di qualità sicuramente i prezzi rimangono quelli, magari ci può essere un calo minimo del 5-10% per immobili che effettivamente non offrono grandi servizi o che non sono così vicini alla spiaggia se parliamo di mare. Credo anche insomma che ci sia molta differenza tra se parliamo di bassa e di alta stagione, perché ovviamente i guadagni principali in Italia sono legati alle settimane di Ferragosto e comunque agosto è sicuramente alta stagione, quindi ci sono delle oscillazioni notevoli tra un appartamento preso per 2 settimane a giugno, a luglio e uno preso in agosto. E anche in questo caso appunto è vero che gli italiani concentrano le loro vacanze soprattutto ad agosto, ma è vero che ci sono sempre più persone che iniziano a valutare vacanze compatibilmente poi con gli impegni lavorativi anche in altri periodi, proprio perché anche questo insieme a scegliere come formula di vacanza non l'hotel ma la casa, scelta tra l'altro in un periodo che può essere giugno, luglio o settembre, può dare un risparmio ulteriore. No, intanto c'è un ascoltatore che ci scrive vacanze nel Conero, che è la zona mia di origine, 500 euro a settimana, forse nel secolo passato, no, non credo, io credo che invece queste cifre si trovino ancora tranquillamente, lo dico all'ascoltatore, non fosse altro appunto perché sono di quelle parti e quindi la conosco anche bene. È chiaro che poi ci saranno le medie di Trilussa, sono quello che sono delle medie rappresentative in termini molto generali, è chiaro che per fare una media ci sono dei picchi estremi, per cui, ma questo è un problema che insomma è inutile che stiamo ad affrontare qua. Allora, Tamara da Pistoia, ci dica un po' il tema del contratto d'affitto che poi approfondisco con Pietro Giordano. Buongiorno Tamara. Buongiorno. Eccoci qui. Sì, mi sentite? Sì, sì. Sì, premesso che personalmente scelgo l'appartamento perché mi lascia più libera quanto orari e non legarmi agli impegni di altre persone, come sarebbe per dire la zona. Tamara, può stare abbastanza vicina al suo telefono? Perché non so se sfugge la sua voce per qualche motivo particolare. Stamattina non riesco a sentire nessuno bene, non lo so, cioè abbiamo le linee telefoniche boicottate, sì, forse. Ecco qua, la allora sento meglio. Riprovo. Grazie. Premesso, dicevo che la scelta personalmente dell'appartamento anziché dell'albergo, del villaggio, perché mi dà più libertà quanto a non sentirsi legati ai tempi o anche di altre persone e quant'altro. Volevo segnalare che io da anni appunto scelgo l'appartamento e viene proposto solitamente dall'agenzia quando si prende l'intero mese di luglio o di agosto un contratto uso vacanze o natura transitoria, che però all'inizio dei 30 giorni. Mentre entrambi i mesi, luglio e agosto, ne hanno 31. Credo sia una piccola, diciamo, irregolarità che ormai è divenuta prassi, perché il contratto comunque uso transitorio è più snello come tipo rispetto agli altri e credo anche più leggero sotto un profilo oneroso. Tamara, la ringrazio. Vado subito a Pietro Giordano se gli risulta appunto questa prassi di un po' grattarsi via il giorno di agosto, che teoricamente sarebbe il tutto diritto che le persone che scelgono di affittare si possano godere, e invece insomma ci si deve accontentare di 30 giorni di agosto, un giorno insomma se lo tengono. Giordano. Sì, capita molto spesso e purtroppo è una modalità che viene utilizzata appunto per grattare il giorno di agosto. È una modalità che purtroppo non qualifica il settore, anche se non tutti gli imprenditori del settore agiscono in questo senso. No, io tra l'altro adesso magari risento Giordano, possiamo tentare di ripristinare la telefonata, perché con il segretario di Adiconsum lo sento veramente molto male, non so se è per qualche problema nostro o suo. Comunque Isabella Tulipano di Solo Affitti, si riesce più facilmente per esempio rispetto al passato a negoziare un contratto d'affitto, che so, di 2 settimane, perché io immagino che anche per chi affitta è molto difficile, per esempio se voglio andare solo una settimana ad affittare un appartamento, non è che sia stato sempre molto semplice, almeno fino a qualche anno fa, non una prassi molto consueta. No, effettivamente si preferisco insomma contratti un po' più lunghi, proprio perché in questo modo il proprietario si sente un po' più tutelato rispetto a conoscere vari inquilini per più settimane. La questione forse dei 30 giorni è soprattutto legata a una pratica burocratica, perché i contratti durata superiore a 30 giorni andrebbero registrati obbligatoriamente. Eccoci qua. E quindi diciamo che appunto una settimana è poco e 30 giorni sono un po' il limite, perché in questo modo si evitano le spese di registrazione, perché superato quel limite ci sarebbe l'obbligo di registrare il contratto e quindi con delle spese che ricadrebbero a metà tra proprietario ed inquilino. Pietro Giordano di Adiconsum, torno un attimo da lei, poi sentiremo gli intermediari e le agenzie che intermediano l'offerta appunto di case vacanze, però ammettendo che io riesca a trovare un'occasione in via del tutto individuale, personale, privata e voglio appunto affittare una casa per le mie vacanze in una bella località del sud, dove del nord, insomma qualsiasi, se scelgo appunto di intavolare un rapporto tra privato e privato per fare un contratto d'affitto che sia ovviamente tutto regolare, che cosa devo chiedere al proprietario e quali sono anche i miei doveri di affittuario? Quindi bisogna chiedere intanto la stipula di un contratto in forma scritta, anche se non è obbligatorio, però è una cosa fondamentale, perché all'interno vanno messi nome, cognome, indirizzo del proprietario, la descrizione soprattutto dettagliata dell'immobile, e noi consigliamo che al momento in cui si decide questo tipo di vacanza o si va prima a visionare l'immobile o quando si arriva si controlla quanto sottoscritto con lo stato dell'immobile, e ove non esistesse le stesse condizioni consigliamo di fare fotografie o filmati che attestino appunto che quanto sottoscritto con regolare contratto può non essere conforme allo stesso contratto. Infatti poi mediamente il proprietario dovrebbe consegnare anche un inventario di tutto ciò che è contenuto nell'appartamento in modo tale che venga ritrovato tutto a posto alla fine del contratto, in sostanza, e alla fine della permanenza. E alla fine del contratto noi consigliamo che si faccia sottoscrivere al proprietario una liberatoria dopo aver visionato l'intero appartamento, e una liberatoria che affermi appunto che nulla è stato danneggiato o messo fuori posto o sottratto. Questo è assolutamente indispensabile, perché molti consumatori purtroppo alcune volte trovano poi una raccomandata che è ricevuta di ritorno e che contesta il proprietario, contesta al consumatore una serie di addebiti che non sono corrispondenti a ciò che è avvenuto. Segretario, diciamolo anche senza tanti mezzi termini, perché poi qua ovviamente molti ascoltatori ce lo stanno segnalando, qua il tasso di nero che c'è nel settore è impressionante, e allora se qualcuno ci dice a patto che tu mi paghi in nero ti faccio un bello sconto, io capisco che siamo tutti allettati alla ricerca di sconti su tutto, ma scoraggiamola questa pratica, perché sennò veramente l'evasione non la combatteremo mai più nel nostro paese e ci andiamo di mezzo tutti quanti, soprattutto i contribuenti onesti. Assolutamente d'accordo, questa è una pratica che purtroppo si crede di risparmiare, ma poi alla fine si fa solo un danno all'intera collettività e quindi a se stessi, quindi una serie di persone non pagano le tasse. Il nero in questo settore è enorme, soprattutto quando si stipulano contratti o addirittura non c'è il contratto con singoli proprietari. Siccome fino a un mese è possibile non sottoscrivere un contratto, ma fare la dichiarazione a voce, questo è assolutamente indispensabile. Risparmiare finisce col colpire tutti gli utenti e quindi tutti infatti, i consumatori. Anche perché veramente siamo un po' fuori casa, ci può capitare di tutto, ma non vanno neanche bene, insomma, per tanti appunto aspetti queste cose. E poi non ci inventiamo la scusa che magari quella casa lì sì, me l'hanno data solamente, me l'hanno prestata per un mese perché era proprietaria mia zia. Anche queste scuse banali, cerchiamo in qualche maniera di mettere in piedi e raddrizzare questa nostra economia partendo anche dalle piccole cose, e queste veramente rispetto ai tassi di evasione in tanti settori che sono enormi, io mi rendo conto che possiamo definirle anche tali. Un paio di ascoltatori. Cristina da Torino, buongiorno. Buongiorno. Appunto, come diceva proprio la Adiconsum, va benissimo il contratto con tanto di descrizione della casa e tutto a regola. Io mi sono sempre trovata bene in Sardegna e ultimamente, negli ultimi 3 anni, ho visto che i prezzi sono diminuiti decisamente. Benissimo. Decisamente. Noi affittiamo normalmente delle villette e un 15% in meno addirittura dell'anno scorso l'ho trovato in case molto belle, tra l'altro via internet, sempre soltanto via internet e contratti a regola con tanto di firma a fine anno, a fine mese, del tutto a posto nella. Benissimo, Cristina. Insomma, io la ringrazio anche per la sua testimonianza positiva, perché se no qua siamo sempre, come dire, un po' a fare i detrattori di tutto, e invece ci sono delle località in cui il risparmio si può trovare, in cui i prezzi sono calati rispetto all'anno scorso. È chiaro che questo non è un bel segnale, è un'economia che stenta, che fa fatica, e però quantomeno ci si può permettere anche magari una vacanza, una famiglia che magari per i prezzi elevati l'anno scorso non se la poteva permettere, quest'anno trovando qualche risparmio riesce a guadagnarsi anche un periodo di meritato riposo in una bella località. Sentirei anche Alberto da Vicenza, poi torno ad Isabella Tulipano. Alberto. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, io ho fatto solo l'ultima parte della trasmissione e volevo intervenire solo in merito a quello che è un po' il problema della comunicazione che c'è nel settore. Allora, io negli anni ho sfruttato l'abitazione presa in affitto durante le vacanze, perché l'ho sempre ritenuta migliore rispetto al villaggio piuttosto che ad altre soluzioni. Però mi sono sempre reso conto che è difficile per il consumatore trovare l'offerta, cioè, nel senso che o si va sul posto o si cerca, si contatta le agenzie immobiliari del posto, e allora quindi comunque si entra in quella logica della contrattazione, dell'intermediazione di qualcuno. In realtà quello che ho riscontrato negli ultimi anni molto molto interessante è il fatto che finalmente c'è parecchia gente che comincia a scrivere le opinioni rispetto alle vacanze che fa. Io adesso, prima di decidere di andare in vacanza in un posto, o di quindi di informarmi di dove affittano un appartamento, piuttosto che, vado comunque a farmi una ricerca su internet per vedere quelle che sono le opinioni di chi già c'è andato. Sì, è una prassi. Alberto, la ringrazio molto, buone vacanze naturalmente, largamente Grazie. Utilizzata anche dai siti sui quali è possibile prenotare via Expedia o Podo, che utilizzo mediamente. Ne ho trovato anche un altro questo fine settimana per prenotare un hotel a Roma, e lo stesso, mi sono molto affidata ai giudizi di chi ha già frequentato. Insomma, il pubblico ludibrio molto spesso è la miglior arma per poter operare dei confronti. Isabella Tulipano, anche voi utilizzate questo sistema? Permettete ai vostri utenti di inserire qualche commento rispetto alle case grazie a che sono state affittate, per esempio, grazie alla vostra intermediazione? Isabella Tulipano? Sì, pronto. Eccoci qua, sì, avevamo sbagliato canale. Paolo Corleoni stamattina già con la testa sulle vacanze, tra l'altro viene al Conero con me, quindi ci dica. Diciamo che stiamo mettendo a punto tutto un sistema legato appunto al nuovo marchio sull'affitti vacanze, che permette a chi ha affittato una casa tramite il nostro sito di lasciare un commento. Stiamo mettendo a punto anche un sistema di geolocalizzazione dell'immobile, perché è molto importante anche questo. Oltre alle foto, spesso si dice che l'immobile è vicino alla spiaggia, però poi non c'è modo di verificarlo. In questo modo invece, andandola a visualizzare l'immobile sulla mappa, è possibile calcolare le effettive distanze, quindi rendersi conto se il servizio vicino alla spiaggia è un servizio vero o fittizio. No, anche perché è del tutto, come dire, è totalmente anche nel vostro interesse intermediare una buona offerta. Certo, sì, nel nostro interesse. Che abbia una buona reputazione, certo. Esatto, e come appunto relativamente al nero, sicuramente il fatto di passare dalle agenzie evita questo, e tra l'altro per noi il contratto è molto importante, perché è in fase di lancio una nostra assicurazione che tutela il proprietario dai danni involontari procurati dai turisti, e questo è possibile solo se effettivamente è stato sottoscritto un contratto regolare. Esatto, bravissima. No, tra l'altro, perché voglio dire, sono cose che possono capitare, magari banali, ma insomma, magari famiglie con i bambini, possono succedere tante cose, si possono rompere dei bicchieri, ma anche cose, ma insomma, quindi è bene che ci si attrezzi anche per affrontare ogni tipo di emergenza. L'ultima telefonata la segno a Massimo da Milano, che deve essere telegrafico. Massimo, le do 30 secondi. Sì, grazie. Sì. Sì, io volevo dire che ho battuto questa cosa del prezzo, perché io venivo sempre in Italia, andando in Germania, in Austria, dove le case mediamente sono di livello molto superiori, offrono dei servizi maggiori, con magari anche possibilità di guest house, ossia appartamenti in cui però viene servito a richiesta anche la prima colazione, che in vacanza abbiamo notato che è molto gradevole averla servita, e soprattutto la possibilità di avere anche un punto di ristorazione nello stesso posto dove c'è la casa, e che è comodo, ecco, quando uno è in vacanza, con prezzi molto più competitivi, anche utilizzando sistemi di internet. Non so, voi non li avete nominati, però non so se posso nominarli. No, ci dia qualche suggerimento, perché no, tipo, rapidissimo. Tipo Belvilla, Altravedeo, mi sembra che adesso non mi ricordo esattamente la dicitura, in cui praticamente sono selezionatissimi e nonostante garantiscono veramente un prezzo molto conveniente, sono veramente di estrema qualità. Grazie Massimo. E però insomma in Austria e in Germania non ci sono mica le nostre belle spiagge. La ringrazio comunque, ringrazio anche Pietro Giordano, Isabella Tulipano per essere stati con noi. Devo rapidamente chiudere perché sono fuori tempo massimo come al solito, ringraziando Gaia Romani e Paolo Corleoni. Noi ci sentiamo domani e per chi ci sta già andando, ci andrà questo fine settimana, intanto cominciamo subito ad augurarvi buone vacanze. Io come ultima cosa devo solo fare un ringraziamento a Gianfranco Fabi e non voglio dire altro. A presto, a domani. Salva Danaio.